E fu lì, fu esattamente in quel momento, che decisi finalmente di dare una sterzata alla mia vita. Il mio peggior nemico sono io, e questo mi è sempre stato chiaro. Ma la forza di sopprimere quel veleno che scorreva nelle mie vene, prima che avesse il sopravvento su di me, l'ebbi chiaramente una sera di alcuni mesi fa, guardando gli occhi stretti e rigati del pianto del mio bambino. Io sono affetto da un male più comune di quanto si possa pensare, ma forse fin troppo superficialmente associato a chi viene considerato solo un po' pigro o un po' egoista. Non esiste un farmaco, non esiste una cura specifica, unicamente soluzioni palliative, perché il più delle volte si è costretti a lottare contro se stessi per tutta la vita. Io sono una delle milioni di persone al mondo che manifestano i segni di un disturbo alimentare del comportamento. Ovvero, sono una persona gravemente obesa, un mangiatore compulsivo e il cibo per me è come una droga. La sola vista del cibo mi ha sempre terribilmente attratto. Sono arrivato a ingurgitare anche 30.000 calorie in un solo giorno. Soffro di un disturbo abbastanza comune, un disturbo dell'alimentazione, una bulimia compulsiva, cioè non riuscire a frenarsi nel mangiare. Diciamo che grazie a questa cura che sto facendo sto riuscendo a gestire questa situazione. Sono riuscito a perdere anche peso, circa 60 kg in 7 mesi. Vedere chiunque mangiare qualsiasi cosa che potesse essere la più disgustosa al mondo, per me era irresistibile e in qualche modo dovevo riuscire ad assaggiarla. Le origini di questo genere di disturbo sono varie e misteriose. Un'infanzia difficile e troppo repressa, hanno scritto sul referto gli psicologi che mi hanno analizzato. E quindi giù con diete infinite. Proposte di interventi mai realizzati, decisioni procrastinate che mi hanno portato ai miei 174 kg. Quel giorno però qualcosa è cambiato. Ero in casa da solo col piccolo Samuele di soli 4 mesi. Piangeva come fanno normalmente tutti i bambini alla sua età. Disteso nella culla decisi di prenderlo in braccio per rassicurarlo e calmarlo. Ecco, il semplice sforzo di chinarmi verso di lui per raccoglierlo mi mandò il cuore in subbuglio. Ma non metaforicamente, per l'emozione del gesto in sé. No, no, il cuore si era letteralmente fermato per un attimo. Un extrasistole che mi aveva totalmente spiazzato. Già ne soffrivo e non erano una novità per me, ma avendo il bambino in braccio mi accorsi che quel senso di soffocamento, il cuore che batteva scordinatamente e l'ansia che aumentava, non mi permettevano di tenere mio figlio tra le braccia, nel pieno senso della parola. E poi pensare di non poter tenere un bambino tra le braccia, di non poter giocare con lui, correrci insieme, tenerlo sulle spalle e forse di non riuscire nemmeno a vederlo crescere, non è una bella prospettiva. Da allora sono cambiate molte cose. Dove mi giro vedo cibo, anche una semplice pubblicità a me diventa quasi irrefrenabile e quindi devo occupare il mio tempo facendo tante altre cose e cercando di non pensarci troppo. Questo ovviamente con l'aiuto del mio medico mi ha fatto risvegliare in me l'orgoglio di riuscire a resistere a questa tentazione perché io mi stavo autodistruggendo. Samuele è cresciuto e io ho perso 45 kg. Ora me la godo e riesco a fare tante di quelle cose che prima mi sembravano insormontabili. Ne ha giovato la mia salute, il mio umore, il rapporto con me stesso e con mia moglie. Affronto con più serenità anche l'attesa dell'arrivo del secondo genito. E questi sono solo alcuni dei lati positivi. Di contro non è affatto facile vivere per me un regime alimentare così rigido, ma comunque ben proporzionato, tutto studiato dallo specialista che mi è in cura. Più di prima convivo con un costante senso di fame, ma a poco anche questo si sta placando. Devo a mio figlio la vita e nonostante l'immenso sacrificio che ogni giorno mi ritrovo a dover affrontare, nonostante la strada sia per me ancora lunga, il solo ricordo delle sue lacrime e di quel pianto che non riuscì a placare mi danno la forza, la determinazione e il coraggio per poter andare avanti.